La versione di Oscar Giannino. Eccoci qua, cari ascoltatori di Radio 24, dopo questa mattina attenti noi due, di nuovo in diretta, sono le 16.30, primi 12 secondi, Oscar Giannino alla versione di Oscar, vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo naturalmente l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e infatti anche oggi sarebbe stata una trasmissione segnalata da uno di voi nel campo delle forniture sanitarie per una misura di taglio lineare, che però abbiamo dovuto spostare di un giorno, la faremo senz'altro, perché ovviamente l'argomento è obbligato della trasmissione di oggi per quello che sta avvenendo a Roma da questa mattina, come sapete. Quindi lo dico subito, cittadini romani, anche per i non romani, ma innanzitutto gli ascoltatori romani, chiamateci 800 24 00 24 per darci la vostra opinione, qualunque essa sia, su quello che sta avvenendo. Naturalmente do per scontato che lo sappiate, ma ve lo sintetizzo: gli effetti delle sette pezze d'appoggio di pasti pagati con la carta di credito del comune da parte del sindaco Marino, di volta in volta praticamente tutti smentiti rispetto alle circostanze che lui aveva dichiarato, hanno provocato nel corso della notte un confronto tra il presidente del consiglio e il vertice del PD romano, secondo le ricostruzioni apparse questa mattina su tutta la stampa nazionale. Già ieri sera, e quindi stamattina in edicola, quotidiani come Repubblica aprivano con il titolo di apertura: il PD molla Marino, quindi Marino si deve dimettere. In mattinata una giunta si è riunita, e in questa giunta il vice sindaco del PD Causi, l'assessore al bilancio nominato solo pochissimo tempo fa, si è dimesso insieme ad altri due assessori del PD. Prima ancora della giunta non erano mancate dichiarazioni pubbliche di assessori del PD, come l'assessore ai trasporti Esposito, che dicevano chiaramente che in giornata sarebbe avvenuta una specie di presa d'atto dell'impossibilità di procedere con la giunta Marino a Roma, e quindi la situazione è questa. A dire la verità, fino a questo momento non si hanno notizie né conferme del fatto che il sindaco Marino voglia dimettersi. Vedremo cosa avverrà nelle prossime ore. Esiste l'ipotesi che a questo punto possa anche voler sfidare il PD e SEL, che entrambi chiedono le sue dimissioni, dicendo sfiduciatemi in aula. Non so giudicare quale sarebbe il possibile fine di questo gesto di sfida. Vedremo nelle prossime ore quale sarà comunque la decisione del sindaco. Sta di fatto che il PD ufficialmente ha detto l'esperienza della sindacatura Marino dopo questa ennesima gravissima gaffe è finita. Vi ricordo naturalmente che il PD, di fronte a vicende accumulatesi nel tempo di altre gaffe del sindaco e così via, aveva sempre più a fatica scelto di dire no, andiamo avanti, perché comunque il sindaco Marino, per quanto ingenuo e gaffer, ha comunque intrapreso una discontinuità rispetto ai poteri trasversali imperanti sotto la giunta Alemanno, e la cui piena rilevanza abbiamo appreso man mano che procedevano le indagini su Mafia Capitale. Poi si era arrivati al commissariamento, non commissariamento, come lo chiamo io, da parte del governo, attribuendo al prefetto di Roma Gabrielli una specie di potere di ultima istanza su 8 materie, e alcune di queste a me mi hanno lasciato molto perplesso. Facemmo una puntata, se vi ricordate, con un costituzionalista, il professor Frosini, che ci disse: secondo me questa cosa non ha riscontro nell'ordinamento italiano, perché di fronte ai casi precisi di commissariamento delle città o per motivi economici e finanziari o per motivi di malavita, non c'è comunque la possibilità di fare un commissariamento o non commissariamento in cui si attribuisce al prefetto poteri sovraordinati rispetto a quelli della giunta e del sindaco in materia di ordinaria amministrazione, come erano 6 di queste 8 materie. Allora adesso bisogna bisognerà vedere come si arriva alle dimissioni, non più al sì, ma come, secondo, come si fa, quale sarà la scelta per arrivare a elezioni che, secondo le voci che raccontano tutti i giornali sui loro siti, non sono previste comunque prima della prossima primavera. Nel frattempo, lo sapete, c'è il giubileo in fortissimo ritardo da dover gestire, quindi tutti, o comunque i più, immaginano ulteriore conferma della scelta commissariale, a questo punto una piena scelta commissariale attribuita al progetto Gabrielli o a chi altri. Ma insomma, il punto è una vicenda politicamente molto amara da una parte e molto singolare dall'altra, perché è evidente che per il PD innanzitutto è una vicenda che si è caricata di sempre più peso per tenerla in piedi. Nel frattempo ricordo a tutti, fine di questa sintesi, e prima di presentarvi i nostri ospiti, sentire le loro opinioni e di invitarvi a telefonare all'800 24 00 24, che il PD ha anche a casa propria, collegata a quello che è avvenuto con Mafia Capitale, una gestione straordinaria per quello che riguarda il partito a Roma, affidata al presidente del partito Orfini. E vi ricordo che Orfini fu affidato all'inizio a Fabrizio Barca una relazione sullo stato delle sezioni del PD in tutta Roma. La relazione di Fabrizio Barca, pubblica, è una relazione che non risparmiò giudizi, analisi molto dure e proposte di misure molto dure, che sono state iniziate ad attuare con 27 circoli chiusi a Roma, con un giudizio che fossero espressione, in altre parole, di cordate interne e non circoli di attività politica, e il PD è ancora commissariato. Queste sono le condizioni in cui adesso bisognerà vedere che cosa succede. E naturalmente le voci dell'opposizione invocavano da mesi il voto a Roma, invece di perdere altro tempo. E in queste ore è evidente che su Marino coloro stessi, come devo dire, che lo hanno sostenuto fino a ieri, adesso hanno la gara aperta a chi invece deve assumersi la responsabilità pubblica di dire: no, sei finito, basta, hai sbagliato troppo. Come sempre in queste ore poi avvengono delle manifestazioni sulle quali naturalmente si possono nutrire tutti i dubbi anche di stile del caso, perché sono i momenti nei quali ovviamente la rincorsa a una finestra di opportunità politica fa dimenticare quello che si era detto fino a ieri. Però su questo io sono ansioso di capire come la pensate voi, e chiedo ai nostri due ospiti che vi presento come la pensano loro, come pensano che adesso si svilupperà questa faccenda, che impatto avrà sul PD, anche sul governo Renzi indirettamente, ma innanzitutto sul PD, quanto è fondata la paura di dover andare avanti al voto per impedire che magari vinca il Movimento 5 Stelle, e così via. Allora, i nostri due ospiti sono, da una parte, Claudio Velardi, imprenditore, editore, e che fa molto dibattito pubblico intorno ai temi del governo, della sinistra, di Renzi, di Roma e così via. Grazie di essere con noi, Claudio. E Stefano Feltri, vice direttore del Fatto. Grazie, Stefano. Grazie a te, Oscar. Posso chiedere innanzitutto a Claudio Velardi se è sorpreso da questo, dalla vicenda di oggi, e cosa prevede che avvenga a questo punto? Ma cosa prevedo che avvenga? Immagino che si vada ad un commissariamento pieno, perché poi tutti quanti sono preoccupati di questo giubileo, anche se naturalmente c'è anche qualche aspetto, diciamo, eccessivo in questa preoccupazione. Far andare bene il giubileo significa avere degli uffici che funzionano, dei lavori che si fanno. Non è che è indispensabile, diciamo, a questo fine avere il sindaco il migliore, diciamo, possibile. Ci vorrebbe un'amministrazione ordinariamente funzionante, che è un discorso un po' diverso. Perché si è arrivato in questa situazione? Perché penso che il PD l'abbia gestita male e tardi. C'ha un pezzo di responsabilità Matteo Renzi, perché dalla scorsa primavera si era capito che Marina non aveva nessuna possibilità di durare. Responsabilità maggiori ce l'ha il presidente del partito, Matteo Orfini, che io ricordo essere non solo il commissario di partito a Roma, ma il presidente del PD, sì. E che ha gestito in maniera vecchia, da vecchio PC, la situazione interna al partito romano, tutte queste cose che anche tu sintetizzavi, le sezioni, i circoli, le assemblee, i documenti, o addirittura il ripescaggio di questa iniziativa folle di Barca, ti ricordi quando parlava di, come no, di catoblepismo, diciamo, tutte quelle espressioni strane che usava, sono la testimonianza di un partito che non riesce a capire qual è il problema di fondo oggi in una città e non solo. Il problema di fondo è avere un leader, okay, che a Roma non c'è, da lanciare, e avere, diciamo, una, l'accountability, come la chiamiamo oggi, diciamo, di questo leader. Questo è tutto. Non si ricostruisce la situazione romana dal punto di vista del PD, intendo, con appunto con misure di natura organizzative, ma semplicemente facendo scendere, o meglio, scendendo in campo un leader del tutto autonomamente, al di fuori delle strutture di partito, che secondo me vanno tutte quante sciolte. Non bisogna procedere alla riorganizzazione, vanno eliminate tutte quante, per poter quindi poi aspirare al, come dire, a riprendere il comune. Detto che però, mi scuso, concludo con questo, detto che non è che bisogna per forza di cose riprendersi il comune, non l'ha ordinato nessun medico. Cioè, se il PD sarà capace di, come dire, di mettersi in movimento con un leader capace, con un aspirante sindaco forte, bene. Altrimenti andrà, ma non lo so a chi, al Movimento 5 Stelle, oppure a questa plebaglia che oggi lancia monetine fuori al Campidoglio. Non c'è niente di cui, niente di male, non è, capisci cosa intendo dire, non è che, perché è obbligatorio, per così dire, che il PD dia la soluzione al caso. Se non la dà, bene, se non la dà, bene lo stesso, i cittadini faranno altre scelte. Io su questo non ho un atteggiamento come dire, così, perché ho l'impressione che anche Renzi ragioni di questa cosa, come a dire, attenzione, arrivano i 5 Stelle, e vabbè, e se arrivano vuol dire che avrete sbagliato e arriveranno loro o altri, e che so io. Ma siccome notoriamente tu sei convinto, no? Sei un sostenitore, il che non significa sposarne al 100% tutte le cose che fai e che dice, però sì, sei un convinto sostenitore di Renzi. Ha sbagliato anche Renzi, secondo te? Sì, ha fatto un po' il furbo. Nel senso che lui da sempre non si fidava, non si fida da tanto tempo di Marino, ha lasciato che le cose le gestisse Orfini, adesso naturalmente è Orfini, appare dal punto di vista interno come il responsabile massimo di quello che sta accadendo, immagino che ne pagherà anche le colpe, tutto sommato giustamente, perché comunque ha gestito direttamente e personalmente in questi mesi la vicenda Orfini. Renzi ha fatto un po' il furbetto. Poi ti devo fare un'altra domanda, che è la domanda che già vedo molti ascoltatori pongono con i loro sms. Molti si pongono il problema proprio di capire personalmente questa singolare figura di Marino, che da una parte è evidente un po' a tutti, sembra il peggior nemico di se stesso, e dall'altra molti si chiedono, ma è possibile che sia così, dice un ascoltatore, babbeo, oppure quanto è forte l'argomento che poi è anche scomodo lui, e magari non avviene niente di simile sui controlli dei sindaci delle altre grandi città, se davvero sono andati a cena con Tizio e con Caio, dicono molti, perché se facessimo un controllo di questi per tutti chissà come andrebbe a finire. Però a te chiedo dopo, adesso faccio la stessa domanda a Stefano Feltri, sorpreso da quello che avviene, che cosa succede secondo te e quali conseguenze e quali implicazioni per PD, per il governo, ma per il PD a Roma, Roma nazionale, Stefano? Ma io ho un'idea un pochino diversa da quella che diceva adesso Claudio Velardi, perché secondo me sì, Renzi è vero che ha fatto un po' il furbo su Roma, ma soprattutto ha dimostrato di avere le idee abbastanza confuse, perché prima ha cercato di sfiduciare il sindaco in diretta televisiva, porta a porta, poi ha cambiato idea, poi di nuovo ha cambiato posizione. Cioè, si capisce che a Renzi Marino non piace, che tra i due non c'è nessun feeling, ma come dire, Renzi ha un po' sottovalutato il fatto di non avere il potere di licenziare il sindaco, proprio tecnicamente, lo stiamo vedendo in queste ore, cioè mandare via un sindaco, per quanto espressione del Partito Democratico, anche se sei il segretario del Partito Democratico, può essere molto complicato. C'è stato questo tentativo di affiancamento con i tre assessori che poi si sono dimessi, soprattutto con Causi ed Esposito. Insomma, c'è stato un tentativo di, come dire, imbrigliarlo, c'è stata quella sceneggiata un po' del commissariamento con Gabrielli, che come dicevi tu nell'introduzione non è un vero commissariamento, nel senso che non è stato dato nessun potere vero decisivo in più a Gabrielli, e quindi Renzi, diciamo, si è scontrato un po' col fatto che non può disporre dei suoi sindaci, ammesso che Marina sia considerato ancora un sindaco del Partito Democratico, in maniera arbitraria. Poi c'è un'altra cosa su cui dissento rispetto a, a Velardi, cioè il ruolo di Orfini. Orfini con Barca ha fatto una cosa che da un certo punto di vista non la si può criticare più di tanto, perché il Partito Democratico a Roma ha dimostrato di essere devastato, non soltanto da Mafia Capitale, ma anche dal percorso che ha portato a Mafia Capitale, cioè di non essere più in grado di esprimere una classe dirigente che non avesse una funzione strettamente affaristica. Questa è un po' la conclusione a cui è giunto anche il rapporto di Fabrizio Barca. Io mi ricordo la sera in cui ha presentato la festa dell'Unità di Roma, io ero lì con lui a intervistarlo, e c'era un clima davvero di da un lato di un po' di rabbia, ma soprattutto di, come dire, adesso ricominciamo, cioè adesso il Partito Democratico da questo trauma può cercare di rigenerarsi. Il problema di Orfini e di Barca, cioè in maniera minore, ma soprattutto di Orfini, e che tutto questo piano si reggeva su una qualche forma di tenuta di Marino, sul fatto che lui fosse in grado di gestire un po' questa situazione, cosa che ha dimostrato di non essere in grado di fare. Ma ti dico solo un dettaglio che a me ha colpito: quando esce la foto di lui che fa le immersioni in America, perché lui non dice niente? Quando è tornato, dopo molti giorni, ha detto che quella foto era falsa, perché come dimostrava il fatto che lui non avesse la barba in quella foto, mentre adesso ce l'ha. Diciamo che abbia ragione Marino, ma se è così, non sei in grado di dirlo nel giorno stesso in cui esce, di mandare un segnale, cioè questo suo alternare disinteresse verso le critiche e poi un'ossessiva tentativo di replicare con discorsi assurdi tipo quante lampadine cambierà a Roma, come argomento per difendersi dal fatto che non era presente al funerale, quando è stato il funerale dei Casamonica, e non ha gestito quella situazione. Cioè ha dimostrato di essere un po', come dire, fuori contesto, di non essere in grado di mettersi in sintonia con quello che è l'elettorato. E poi chiudo, c'è una cosa secondo me cruciale, cioè finché c'è stata Mafia Capitale o De Vene e tutto il resto, la gente diceva ok, Marino non sarà qualche problema di, come di comunicazione, ma almeno è uno che non sì, ruba. Sì. Adesso questo alibi si è frantumato, perché non è che lui ha rubato, ma se uno fa un po' il furbo sulle note spese non riesce a gestire quel tipo di, come dire, trasparenza e di ambiguità lì, come si fa a fidarsi di lui per gestire gli appalti, per gestire i campi Rom o i grandi lavori di Roma o il futuro dell'ATAC? È chiaro che non ci si può fidare. Allora, torniamo tra un minuto con i nostri ospiti e le vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:48 primi, in attesa delle decisioni che sta prendendo in chiuso in Campidoglio il sindaco di Roma Marino. Il PD l'ha sfiduciato, il vice sindaco e l'assessore del PD sono già dimessi, e valutando le prime conseguenze, Claudio Velardi, ti sei occupato di comunicazione da una vita, lo hai fatto anche professionalmente per clienti e così via, cioè, è il tuo mestiere. Allora, tu ci credi? Com'è possibile credere all'idea di un nemico di se stesso così a oltranza, cioè incapace di valutare anche le cose più elementari di quello che, le conseguenze di quello che dice o non dice, c'è o non c'è? Ci credi davvero? Il fenomeno Marino andrà studiato, perché non c'è dubbio che lui anche personalmente ha delle caratteristiche davvero particolari, questo mix di arroganza e totale ingenuità che dimostra, il fatto di essere una figura così clamorosamente autocentrata, come lo sono molto spesso i politici, ma lui decisamente altro. Ma lui politico non è di natura. Quindi, Ma questo è il punto, bravo, veniamo al punto. Il punto è che lui non è re, lui è un uomo che politico non è, ma viene dalla cosiddetta società civile e fino anche con qualche scheletruzzo nell'armadio, diciamo, del suo passato. È sempre, diciamo, di scontrini. Sì, sì, sempre di scontrini, sì, esatto. In America, diciamo, non fu proprio troppo tollerato, diciamo, quando ci stava. E l'uomo della società civile che arriva ad assumere responsabilità politiche lo fa prima in maniera molto furbesca, entrando dentro le dinamiche interne del Partito Democratico, allora sotto l'egida di Goffredo Bettini, candidandosi alle primarie e trovando un suo spazio. Poi candidandosi sempre abbastanza improbabilmente al Comune e vincendo anche per una serie di casualità. Quindi alla prova del governo concreto, la verità è che Marino si è dimostrato totalmente inadeguato. guarda che qui poi la cosa si collega anche al discorso che si faceva su Orfini, su cui sì, c'è un punto di dissenso con Feltri. Anche Orfini e Barca, perché il punto di fondo è un po' questo, non hanno letteralmente mai discusso in questi mesi di una questione che fosse di merito riguardo Roma. Nulla. Appunto, quando si discute di sezioni di partito, di circoli di assemblee, di come riorganizzarsi, o quando, come fa Marino, si fanno solamente dei comizi periodici, anzi poi quotidiani, sul fatto che lui è l'unico combattente del malaffare, della mafia e di tutte le disgrazie di questa città, ma nessuno, né il sindaco, né il partito di riferimento fondamentale della città, ha discusso di un'opzione di merito. Io invito chiunque, non so se ti ricordi. No, no, ma figurati, io sul Messaggero scrivo appunto delle cose dell'ATAC, dell'AMA, degli scioperi, delle cose, eccetera. Ci occupiamo di quello. Però ho avuto solamente questa ultima presenza, anche questa purtroppo improbabile. A me era simpatico questo esposito, ma pure lui è andato lì ed è entrato nel cono, diciamo, nel buco nero delle gaffe di Marino, diciamo, accodandosi anche lui con alcune performance poco brillanti, e ripeto, andrà studiato. Allora, Stefano Feltri, tu, molti continuano a insistere, dei miei ascoltatori dicono, ma sì, ingenuo sì, ma quanto era scomodo. Tu cosa dici su questo carattere singolare di Marino? È la sconfitta della società civile, servono politici veri? Non necessariamente, non è la conclusione a cui arriverei sul caso Marino. Diciamo, questo personaggio specifico preso dalla società civile non ha dimostrato di essere all'altezza di gestire una situazione estremamente complessa, il che non significa che nessuno possa riuscirci. Quanto alla sua scomodità, c'è una cosa che è vera, nel senso che Marino, anche per le questioni che diceva Velardi, cioè per un po' la casualità che lo ha portato al governo di Roma, non è espressione diretta di quelle filiere le cui propaggini peggiori abbiamo visto all'opera nelle carte giudiziarie di Mafia Capitale. No, di no, questo non c'è dubbio. Però contemporaneamente, Stefano, vista proprio la vastità della macchina amministrativa romana, la policentricità, la quantità di società controllate, partecipate, il fatto che l'ATAC sia la più scassata delle tre municipalizzate italiane da anni e così via, è postula per un sindaco avere una macchina dietro capace di entrare pervasivamente, i funzionari, neanche i dirigenti che non ruotano e che hanno ciascuno cose trasversali. Ecco, questo per Roma è impensabile, che uno da solo, per quanto bravo e magari ingenuo, riesca a cambiarlo. Questo io credo profondamente sia un pezzo fondamentale, per esempio, della pessima resa di Marino. Sentiamo come la pensano un po' dei nostri ascoltatori. Giorgio da Roma, per esempio. Giorgio. Sì, buonasera Giannino, tanto sono contento per due cose. Prima di aver parlato con lei stasera e secondo che la mattina la risento su un'altra parte. Grazie, poi, però andiamo al merito. Il merito a Marino è che comunque se ne deve andare, perché se non erro in Inghilterra per una registrazione di acquisto di sigari si sono dimessi. E terzo, una piccola provocazione, ma costituzionalmente sarebbe possibile essere governati a Roma da uno staff di tecnici stranieri, austriaci, svizzeri, okay. Sloveni. Capito, lei è dell'idea che dichiariamo guerra alla Svizzera e arrendiamoci alla Svizzera 5 minuti dopo. Ho capito cosa vuol dire, naturalmente sa che non è possibile. Grazie da Treviso, come la pensa? Grazie. Eccomi qua, ringrazio molto. Si figuri. Allora, dal mio punto di vista, cioè, sarebbe una grandissima cavolata se dimettesse, nel senso che io sto osservando da tempo tutto quello che sta accadendo a Roma e credo che sia come dire, un grandissimo sgambetto che si sta facendo a Marino, dallo scandalo Casamonica. Però lui ci mette del suo con queste sue uscite. Ma assolutamente, ma voglio dire, se fosse un politico scafato come No, no, quindi ho capito cosa dice. Siamo abituati, in effetti, come a quelli che siamo abituati. Certo, non sarebbe in corso in queste gaffe che testimoniano il fatto che non è un politico scafato, però ai suoi occhi i meriti prevalgono anche su questo. Molti ascoltatori la pensano come lei, cosa che anche in queste ore devo devo dire, almeno non vuol dire nulla, non è un sondaggio, però molti ci scrivono esattamente quello che ci ha detto. Incredibile a dirsi, però non dimenticatevi che a noi, a questo, a Roma siamo arrivati dopo il disastro assoluto della destra di Alamanno, e io questo ci tengo a dirlo, perché cari ascoltatori, ricordatevelo al momento giusto, che adesso guai, ma prima premessa dei guai, eccetera eccetera. Vedremo cosa succederà. Intanto grazie a Stefano Feltri e a Claudio Velardo, e appuntamento con me domani mattina alle 8:15 insieme a Alessandro Milan, attenti a noi due, e poi domani pomeriggio ovviamente ancora una volta la versione di Oscar.